di fronte alla decisione dello stadio, della regione, di altri enti di ospitare Italia-Israele di nuovo, perché Italia-Israele era stata già giocata l'anno scorso nella stessa identica data, il 14 ottobre, e già quella volta centinaia di persone erano scese in piazza Udine per protestare. Quindi venendo a quest'anno, questa partita si è voluta rigiocare sempre a Udine. Questa volta si tratta di non di un amichevole come l'anno scorso, ma di una partita che vale per i mondiali. Il sindaco ha definito inopportuno giocare ora. Noi non è che sembra inopportuno, a noi sembra proprio un condono del genocidio in corso. È un atto gravissimo che va fondamentalmente a sostenere le politiche israeliane, che passano anche proprio dallo sport, dalla cultura. Abbiamo visto anche la FIFA che ha detto: beh, potremmo fare una sottoscrizione, insomma, devolvere in beneficenza i ricavi di quella partita, però insomma voi non, questa cosa non basta. No, non solo non basta, ci sembra proprio appunto di condonare un atteggiamento essenzialmente di impunità, no? Cioè non possiamo ragionare pensando che si può continuare nella distruzione dello sterminio, del genocidio dei palestinesi. Basta che poi parte dei proventi, dei profitti vadano a delle organizzazioni umanitarie. Cioè è assurdo, il punto è fermarsi, non è dare parte dei proventi a Gaza. Tra l'altro abbiamo chiesto alla FIGC insieme a molte altre realtà italiane non solo di sospendere la partita, ma anche di sospendere la presenza della nazionale israeliana, come tra l'altro sarebbe in linea con il regolamento stesso della FIFA. Fa parte di una mobilitazione più ampia che va appunto a riconoscere le responsabilità di Israele e a sospendere Israele dalle competizioni, cosa che peraltro è già successa in altri casi, no? Come la Russia, la Bielorussia, che sono state quasi subito escluse da tornei internazionali non solo calcistici ma anche dalle Olimpiadi, e cosa che è successa anche decenni fa con il Sudafrica, fino a quando non ha sospeso le politiche di apartheid. Quindi non si tratta di un caso nuovo, è una cosa, sono strategie che sono già state attuate, e in un momento del genere, in un contesto dove niente purtroppo sta funzionando per fermare il suicidio, ci sembra assolutamente imprescindibile utilizzare tutte le tattiche, le strategie possibili e cercare di appunto opporsi al governo israeliano in tutti i modi possibili. Tu appunto ricordavi le applicazioni del regolamento anche nel recente passato. Perché secondo te per Israele invece questa cosa non viene attuata? Anche perché insomma è un genocidio oramai in diretta mondiale, non è che si può avere dei dubbi. È una risposta politica, una motivazione puramente politica. Cioè, per quanto riguardava la Russia era molto più facile per Europa e Stati Uniti essere più incisivi e anche escluderli dalle competizioni internazionali, ma anche passare per esempio a sanzioni economiche, cosa che non sta avvenendo assolutamente nei confronti di figure di Stato israeliane, tranne per un paio di Stati europei, diciamo un po' più progressisti. Si tratta proprio del doppio standard che si sta applicando, che si applicato finora per quanto riguarda Israele. Qui come stati europei continuiamo ad avere collaborazioni, sostegno, partnership, tornando al sindaco di Udine che avevi citato all'inizio. Certo, adesso il sindaco ha chiesto di rimandare, non di sospendere la partita, che è molto diverso e sostanzialmente per motivi di ordine pubblico, ma ricordiamo che il sindaco di Udine ad oggi continua a non sospendere una collaborazione, un gemellaggio della città di Udine, a cui fanno parte anche altri enti pubblici in regione, con la città di Modin, che è un insediamento illegale in Cisgiordania. Quindi sembra anche un po' incoerente che si chieda ora la sospensione della partita, posto che appunto non è la sospensione, ma è solo, sarebbe un rinvio, quando poi la città di Udine, dal punto di vista istituzionale, ha queste relazioni, questi rapporti con insediamenti illegali israeliani e continua a sostenere, a portare avanti. Quindi voi confermate la manifestazione invece contro questa? Sì, la manifestazione è confermata, finora ci sono state circa 200 adesioni da varie associazioni e altri enti collettivi anche a livello nazionale. È un invito che estendiamo a tutti, si tratta del 14 ottobre alle ore 17:30 in Piazza della Repubblica a Udine. Se appunto ci sono altri collettivi che vogliono aggiungersi, ci possono contattare contattare i social, al Comitato per la Palestina di Udine, e possiamo insomma avere informazioni.